tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti in una nuova puntata del notiziario anticlericale da Rai Storia del 10 luglio 2020, riferimenti anticlericali. Fu scelta una collocazione del palazzaccio, cioè il palazzo della Cassazione a Roma, vicino al Vaticano, a significare la nuova giustizia, uguale per tutti, in contrapposizione a quella papale in cui nobili e preti avevano privilegi. Come sappiamo, però, purtroppo anche la giustizia nuova, a cominciare dai crocifissi e dalla improcedibilità contro i cardinali, presenta privilegi clericali. Lo scandalo dei leghisti filocrocifissi alla regione Lombardia. Camici non fu donazione, sfilata di testi in procura. Si prospetta, visti le 7 ore di interrogatorio di una funzionaria della regione, poveretta, e si sospetta una truffa, chiaramente. Dalla Calabria, Don Massimo si è spretato, ha gettato la tonaca alle ortiche, si è sposato, ma poi è scomparso stranamente. E lo riferisce Giallo del 15 luglio, poi vedremo come va a finire. Abusava di una bimba di 10 anni, ma il prete pedofilo resta libero. E lo sappiamo da Calenzano, Firenze. Ora la bimba vive in una comunità. E la rivista Giallo, sempre molto anticlericale, Don Paolo, il prete pedofilo, la condanna è troppo lieve, da Giallo del 15 luglio 2020. Poi abbiamo il caso della suora abusata dal prete psicanalista, che si salva per prescrizione, e quindi vedremo, insomma, nelle prossime puntate del notiziario bene e meglio la cosa. Dalla Valcamonica e Bergamo, padre Zanotti agli arresti domiciliari a Sovere, lì nel Bergamasco. Ne combina peggio di Bertoldo, gli dicono gli altri preti. Poi riciclaggio, truffa e sfruttamento del lavoro. La cooperativa di padre Zanotti era una specie di associazione a delinquere. Abusi clericali in Polonia. Dopo i due documentari, i vescovi polacchi provano a difendersi e dicono alle vittime il primo posto. Ipocrisia clericale. Sono andato a visitare il Museo dell'Inquisizione di Triora, che è dedicato appunto ai processi per stregoneria, basati chiaramente tutti su superstizioni ecclesiastiche, e vengo a sapere che maledicevano tutti gli anni anche il brulicante esercito, c'era la maledizione contro i bruchi, e processarono queste povere donne accusate di stregoneria, di cui molte morirono in celle spaventose, a causa appunto delle condizioni di detenzione disumane e delle torture subite, no? La tortura del cavalletto, che c'è una truculenta immagine proprio nel museo, e quella dell'ustione con ferri roventi. E già che ero lì in provincia di Savona, sono andato a incontrare gli amici di Rete L'Abuso, Francesco Zanotti, e ho acquistato il suo libro in cui denuncia i crimini clericali pedofili, di cui vi racconterò nelle prossime puntate. Dall'Avvenire del 3 luglio, la pena di morte è inaccettabile, affronto al Vangelo. Ovviamente questa è la cosa più grossa che si poteva dire, perché nello Stato della Chiesa la pena di morte è sempre esistita, e lo prova la ghigliottina di Pio IX, ancora oggi conservata nel Museo di Criminologia in Via Giulia a Roma. Museo che però attualmente è chiuso per il Covid. Picchia la moglie con la statuetta di Padre Pio, arrestato a Campi Bisenzio, un pensionato. Prete, se lo conosci, lo eviti. Per contatti con Pierino del Ciclo Giordano Bruno, 331-730-2874. Clero degenerato. Don Pistelli Ermenegildo, Firenze 1862-1927, padre Scolopio e famoso letterato, noto filofascista pro Manganello, esaltava Mussolini in ogni maniera, pregava ogni giorno per lui e infatti è morto ammazzato. Fanatico nazionalista, appoggiava sempre ogni avventura militare in terra straniera. Don Emmanuel Rukundo, Ruanda vivente, cappellano militare ed ex parroco, noto razzista anti-tuzzi. Li odiava e denigrava chiamandoli scarafacci. Durante il genocidio del 94 ricercava e uccideva personalmente i rifugiati tuzzi. Alla fine fu condannato a 25 anni di carcere. Poesiola napoletana anticlericale. Da spagnoli ed imperiali, da francesi e cardinali, libera nos domine. E questa è ovviamente una poesia di epoca cinquecentesca. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. E sul sito www.giordanobrunomi.wordpress.com trovate numerose recensioni anticlericali. Dal mio dizionario anticlericale il termine banchiere spirituale. Da Lucio Lombardi Vallauri una concezione cattolico-romana della giustizia. Banchiere spirituale, detenendo le chiavi delle indulgenze, il Papa è paragonato satiricamente a una sorta di banchiere del purgatorio. Banchieri di Dio furono così definiti Calvi e Marcinkus, pluripregiudicati affaristi clericali collusi con la mafia. Bene, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale.